Letture di Radio 24. Il 4 ottobre riapre a Vicenza la Basilica Palladiana, alla conclusione di 5 anni di restauro. Lo stesso giorno si inaugura anche presso il Palazzo Barbarano il Palladio Museum, uno spazio culturale che, oltre ad offrire presentazioni multimediali per avvicinare il pubblico alla scoperta delle opere palladiane, si pone anche l'obiettivo di diventare un luogo dove far crescere la cultura dell'architettura. Non è il mausoleo di un eroe morto, è piuttosto un luogo dove far crescere una cultura dell'architettura, lontano dalle ciniche logiche della professione, che consumano saperi senza produrne di nuovi. Il Palladio Museum lavora su Palladio, ma senza attualizzarlo, e men che meno proporlo come modello formale per l'oggi. Indaga il passato con gli strumenti della filologia e attenzione ai contesti, indispensabili per cercare di comprendere un mondo sfumato e lontano, e al tempo stesso vicinissimo e molto concreto, ogni volta che camminiamo fra palazzi, ville o chiese costruite secoli fa. La missione del Palladio Museum è leggere alla radice temi e concetti significativi anche nel nostro presente, rappresentandoli e discutendoli con l'orizzonte di creare una piattaforma culturale per l'architettura di domani. Il progetto del Palladio Museum ha radici lontane, che risalgono al 1958, quando Anthony Blunt, André Chastel, Ludwig Heinreich, Rodolfo Pallucchini, Rudolf Witkower e Bruno Zevi fondarono a Vicenza il Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio. Nell'Europa uscita dalla guerra da poco più di un decennio, la volontà comune fu creare un centro di ricerca sulla storia dell'architettura, dove la comunità internazionale degli studiosi potesse incontrarsi e lavorare insieme nella costruzione di una disciplina in grado di precisare un proprio statuto autonomo rispetto alla storia dell'arte e di prescindere dalle scuole nazionali. La scelta di Vicenza era resa ovvia da Palladio, divenuta possibile grazie alla capacità di visione dei politici locali, che avevano dovuto misurarsi con la ricostruzione di un patrimonio devastato dalle bombe e resa concreta dall'energia di un giovane professore, Renato Cevese. Nei decenni successivi, con l'ingresso di studiosi come James Ackerman, Arnaldo Bruschi e Manfredo Tafuri, al focus palladiano andò ad integrarsi l'intero Rinascimento e progressivamente la storia dell'architettura di ogni tempo, tanto che oggi lavorano insieme ispanisti come Fernando Marias, modernisti come Jean-Louis Cohen, restauratori come Mario Piana, specialisti di architettura islamica come Gürlü Necipoglu o archeologi come Pierre Gros. Attraverso l'hardware del Palladio Museum sono questi studiosi, raccolti nel centro palladiano, a mettere a punto il software per raccontare a un largo pubblico le proprie ricerche, nel mentre si stanno svolgendo. Così come al Page Museum di La Brea, a Los Angeles, i paleontologi analizzano davanti agli occhi dei visitatori parti di dinosauri estratte dalle adiacenti pozze bitumose. I gruppi di studiosi lavorano su progetti di ricerca che diventano i temi delle stanze del museo, ognuna delle quali viene modificata ogni anno sulla base di una programmazione triennale. Per questo primo anno, i progetti di ricerca hanno riguardato la comunicazione, la tecnologia, il rapporto con l'economia e con il paesaggio, il disegno di organismi complessi. Essi sono temi chiave per Palladio e sono presentati entrando nel vivo della concezione del suo fortunato trattato 4 libri dell'architettura, della sua creatività nelle innovazioni costruttive, così come dei progetti urbani per Vicenza, della trasformazione del territorio delle ville e dell'invenzione di nuove macchine figurative con le grandi chiese veneziane. Sono però al tempo stesso temi di un'agenda contemporanea. Capire le modalità del progettare di Palladio, dall'assimilazione dei modelli all'uso del disegno, sino alla realizzazione dell'edificio. L'intero percorso è esplicitato nel nuovo museo, il quale è insediato in un'opera originale di Palladio, Palazzo Barbarano, l'unico che egli riuscì a vedere concluso, a prezzo della bancarotta del committente. Il palazzo stesso è la principale opera del museo, visitabile in tutte le sue parti significative. All'interno sono esposti in forma permanente, anche se a rotazione per ragioni conservative, i fogli originali dove Palladio tracciò i propri progetti, conservati a Londra da quasi 400 anni e che ritorneranno progressivamente in Italia per essere studiati ed esposti grazie a un accordo con il Royal Institute of British Architects, che ne detiene la proprietà. Per aiutare il pubblico nella lettura delle specificità dell'architettura, il museo esporrà una serie di dipinti rinascimentali, video, multimedia, fotografie, modelli tridimensionali, fisici e digitali. Un'ala è dedicata a mostre temporanee e si comincia con genealogie fino al 31 marzo 2013, realizzate in collaborazione con il Canadian Centre for Architecture di Montreal, altro partner permanente del Palladio Museum, dai cui archivi è emersa una campagna fotografica realizzata nel secolo scorso fra Africa e America del Nord, dal grande fotografo Max Belker. Essa racconta il palladianesimo inconsapevole degli schiavi neri liberati dalle piantagioni della Virginia, che, rimandati in Africa dai filantropi, ricostruirono in legno e lamiere le ville neopalladiane dei propri padroni. Un viaggio nel tempo, pensando che Vitruvio pone la capanna primitiva a modello della forma del tempio in pietra, il cui frontone triangolare divenne la caratteristica delle ville palladiane, ritornate capanne templari nel doppio attraversamento dell'Atlantico. La concezione del Palladio Museum come laboratorio di ricerca aperto al pubblico è stata messa a punto sperimentando nuove modalità curatoriali dall'architetto Alessandro Scandurra, responsabile poi anche del disegno di grafica e allestimento. Il tema portante del Palladio Museum è stato preservare la profondità della ricerca unita alla determinazione a raccontarla a un pubblico vasto, mettendola in scena attraverso la mutevolezza, la scienza arte della storia non è statica, l'adattabilità di un backstage, la volontà di classificazione e archiviazione dinamica delle esperienze, l'uso dei social media, l'annotazione di tutti i materiali del museo, dai disegni ai modelli, allo stesso edificio. Una serie di database online rendono progressivamente e finalmente disponibile la massa di informazioni sui restauri degli edifici e dei contesti palladiani, come munizioni per la battaglia contro il degrado e il consumo del territorio. E in più, d'ora in poi, esisterà in Veneto un baricentro da cui provare a mettere in rete, sul serio, il turismo culturale dedicato a Palladio. Avete ascoltato la lettura di un articolo di Guido Beltramini, direttore del Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio, dal settimanale Domenica, allegato al Sole 24 Ore, in edicola oggi. A Cavenago, piccolo paese della Brianza, guidato da una giunta di sinistra, un centinaio di bambini, i cui genitori da tempo non pagano la mensa scolastica, dovranno portarsi il pasto da casa e consumarlo in un locale separato. La notizia ha diviso l'opinione pubblica tra chi pensa che ai bambini il pasto dovrebbe essere garantito a prescindere e chi ritiene che molti genitori, pur avendo sufficienti disponibilità economiche, approfittino della situazione per risparmiare i soldi della retta. In ogni caso, la notizia ha suscitato molto meno scalpore rispetto a un episodio analogo avvenuto un paio di anni fa in una scuola di Adro, nel Bresciano, come ricorda Michele Brambilla in un commento pubblicato sulla stampa. Era il 2010. Sulle prime pagine dei giornali scoppiò lo scandalo. Si parlò di 20 bambini, di cui 17 extracomunitari, lasciati a pane e acqua a guardare i compagni che mangiavano la pasta asciutta. Lo scrissero Dario Fo e Franca Rame, e non era vero. Si gridò al razzismo, e così via. La verità era molto diversa e comprendeva, come nel caso di Cavenago, anche l'esistenza di furbastri che non pagano la mensa ai figli, perché tanto in Italia paga sempre pantalone. Anzi, ad Adro la mensa costava perfino meno, solo un euro per i redditi più bassi. Allora però il sindaco era un leghista, Oscar Lancini, un personaggio pittoresco, quello del sole delle Alpi a scuola, al quale non abbiamo risparmiato critiche pesanti, ma che oggi avrebbe diritto a chiedere: che cosa sarebbe successo se il muro di Cavenago, anziché un sindaco di centrosinistra, l'avessi fatto erigere io? E così la faccenda finisce in un'altra rubrica. Trova le differenze. Avete ascoltato la lettura del commento di Michele Brambilla, Paese che vai, indignazione che trovi, dalla stampa del 25 settembre. Thank you. Esiste, si chiede il quotidiano inglese The Guardian, un'età del consenso in cui una ragazzina, se dice sì a un rapporto sessuale, sa davvero cosa sta facendo e un ragazzo capisce sul serio se lei è consenziente o se lui sta prevaricando? Dietro la domanda ci sono alcune cifre. Un terzo delle adolescenti inglesi tra i 13 e i 17 anni sperimenta sesso non desiderato e un'indagine tra giovani maschi mostra che il 37% ritiene che una ragazza sia corresponsabile, in caso di stupro, se non dice no abbastanza chiaramente. Una mala educazione sessuale diffusa anche in Italia, alimentata anche dalla latitanza dei genitori, che aspettano l'ultimo momento per affrontare il tema del sesso con i figli, parlandone troppo poco e troppo tardi, come accusa il quotidiano inglese. Stabilito che di sesso è meglio parlare e sapere al più presto, per farlo invece c'è tempo, almeno secondo una ricerca della Cornell University. Per costruire un rapporto duraturo, è la conclusione, conviene prolungare il corteggiamento e rimandare la consumazione. Nello studio gli scienziati hanno analizzato i dati relativi a 600 coppie e hanno visto che i punteggi migliori sulla qualità della relazione, soddisfazione, coinvolgimento, reciproca comprensione, erano maggiori in chi aveva aspettato più di 6 mesi prima di avere rapporti sessuali. Il corteggiamento dà tempo per capire e decidere, dicono, e nel caso anche per ripensarci. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Sesso non è mai troppo tardi, da Panorama del 22 settembre.